tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Prodotto interno lordo meglio delle attese, l'Istat stima un più 0,9% per il 2016, avanti determinati con le riforme per la crescita, twitta Gentiloni. Gianfranco Fini indagato per concorso in riciclaggio, sequestrati beni per 5 milioni alla famiglia della moglie, Elisabetta Turliani. Un malato di SLA muore a 71 anni facendosi addormentare, la pratica della sedazione profonda, il primo caso in Italia. Caso Cucchi, chiesto il processo per 5 carabinieri, sono quelli che procedettero all'arresto, 3 di loro sono accusati di omicidio preterintenzionale. Nel Partito Democratico resta aperto lo scontro e l'ipotesi di scissione, nei 5 Stelle spunta un sms di Maio su Marra, lo avrebbe definito servitore dello Stato, ma lui smentisce e pubblica l'integrale. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque i dati economici dell'Istat. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati sull'economia italiana, quelli diffusi dall'Istat, leggermente migliori rispetto alle stime del governo e in linea invece con quelle dell'Unione Europea. Stiamo parlando del bilancio del 2016 che, secondo l'Istituto di Statistica, nelle sue stime flash si chiude con un più 0,9% del PIL rispetto al 2015. 0,9 che diventa un più 1% correggendo il dato con gli effetti del calendario, visto che lo scorso anno ci sono state 2 giornate lavorative in meno rispetto al 2015. Le stime di Palazzo Chigi si fermavano ad nel documento programmatico di bilancio al più 0,8%. Sempre secondo l'Istat, il 2016 mostra però nel suo ultimo trimestre un rallentamento della crescita, più 0,2 rispetto al più 0,3 dei 3 mesi precedenti. I dati definitivi sull'economia italiana arriveranno comunque il 1 marzo e qualora fosse confermato un 2016 migliore delle attese, questo potrebbe influire anche sui numeri della prossima correzione del disavanzo chiesta a Palazzo Chigi dall'Europa. Tra i primi commenti quello del Presidente del Consiglio Gentiloni, che ha detto: i dati Istat sul PIL sono incoraggianti, il governo è determinato a proseguire le riforme per favorire la crescita. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio. È un atto dovuto, piena fiducia nell'operato della magistratura, mostra serenità Gianfranco Fini dinanzi alla sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma con l'accusa di concorso in riciclaggio. L'inchiesta è quella che riguarda parte dei fondi neri sottratti al fisco italiano da Francesco Corallo, l'imprenditore catanese divenuto il re delle slot machine statali e arrestato in dicembre nella sua villa lussuosa ai Caraibi. Inchiesta che ha portato al sequestro questa mattina di circa 5 milioni di euro di beni di Elisabetta Turliani, del padre Sergio e del fratello Giancarlo. Le accuse nei loro confronti sono di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio a partire dal 2008, attività che avrebbero generato profitti per 7 milioni di euro. Quanto a Corallo e ai suoi presunti complici, l'accusa è di associazione per delinquere, finalizzata a reati di peculato, riciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I profitti illeciti riciclati attraverso società offshore ammontano a oltre 250 milioni di euro e sarebbero stati reinvestiti da Corallo in attività economiche e finanziarie, nonché in operazioni immobiliari. E nel mirino c'è anche la famosa casa di Monte Carlo, quella che contribuì alla fine della carriera politica dell'ex presidente della Camera. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Siamo al caso Cucchi, chiesto il processo per 5 carabinieri. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei 5 carabinieri coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, il trentenne deceduto il 22 ottobre di 8 anni fa nell'ospedale Sandro Pertini mentre era in custodia cautelare. I 3 carabinieri che arrestarono il 15 ottobre Cucchi sono accusati di omicidio preterintenzionale perché ritenuti autori del pestaggio. Ad altri 2 carabinieri si contesta il reato di calunnia e falso. Cucchi fu arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga. Al momento dell'arresto Stefano Cucchi era sottopeso ma non aveva alcun trauma fisico, rilevati invece al momento della morte. Ai 3 carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale, la Procura di Roma contesta anche il reato di abuso di autorità per aver sottoposto Cucchi a misure di rigore non consentite dalla legge. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo in Veneto adesso per un caso che sembra riaprire il dibattito sull'eutanasia. Aveva espresso la volontà di dormire fino all'arrivo della morte senza più soffrire. E così Dino Bettamin, 70 anni, malato di SLA, è stato assecondato con la sedazione palliativa, rispettando anche il suo rifiuto a qualsiasi trattamento, compresa la nutrizione artificiale. Mio marito era lucido, racconta la moglie del malato, macellaio di Montebelluna in provincia di Treviso, e ha fatto la sua scelta. Così, dopo l'ultima grave crisi respiratoria, è iniziato il suo cammino, che si è concluso ieri. Una decina di giorni fa il bisogno di trovare sollievo è diventato un'urgenza. È accaduto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio, all'ennesima crisi respiratoria scandita dalla paura di soffocare. Gli infermieri della società privata, che dal 2015 si è occupata dell'assistenza domiciliare del paziente, spiegano che si è trattato di una chiara richiesta di sedazione, data da un'angoscia inarrestabile, anche con farmaci e trattamenti psicologici. La stessa sera del 5 febbraio la guardia medica ha aumentato il dosaggio del sedativo che già l'uomo prendeva per flebo, e il giorno successivo la dottoressa dell'assistenza domiciliare ha iniziato a somministrare gli altri farmaci del protocollo. Il paziente non ha mai chiesto di spegnere il respiratore, nonostante la legge lo consenta in questi casi, riferisce un'infermiera. Anzi, lo terrorizzava l'ipotesi di morire soffocato. Ha optato per una scelta in linea con la legge, la bioetica e la sua grande fede. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo a parlarne più avanti, lo faremo nel nostro giro per l'Italia, ci faremo raccontare qualche dettaglio e soprattutto quali sono, che è la grande domanda che ci stiamo ponendo tutti in questi minuti, le differenze tra l'eutanasia e questo caso, dall'infermiera che lo ha seguito, che ha seguito appunto Dino Bettamin negli ultimi 2 anni insieme ad una sua collega. Ci spostiamo in California per la diga che minaccia un'intera vallata. There's a lot to be done, and we're not talking about a few million, we're talking about tens of billions. C'è ancora molto da fare e non stiamo parlando di pochi milioni di dollari, ma di decine di miliardi di dollari. Stiamo facendo tutto il possibile. Queste le parole del governatore della California Jerry Brown, che ha dichiarato lo stato d'emergenza in 3 contee e ha chiesto aiuto all'amministrazione Trump mentre si lotta contro il tempo per evitare il crollo della diga di Oroville, la più alta degli Stati Uniti e che serve la rete idrica più grande del Golfo State. Alcuni elicotteri hanno lanciato enormi sacchi di pietre per cercare di riparare la crepa che si è aperta nel bordo della valvola d'emergenza. Sono già 23.000 i soldati e gli avieri mobilitati e circa 200.000 le persone costrette a lasciare le loro abitazioni. Migliaia di persone che si sono poi riversate lungo le principali arterie stradali, causando ingorghi e mandando in tilt il traffico per ore. Una crepa si è formata nello scarico d'emergenza della diga utilizzato dopo che un altro canale di scarico era stato danneggiato dalle forti piogge degli ultimi giorni e il Servizio Meteo Nazionale ha emesso una nuova allerta. Da domani sono previste ancora piogge. Nel frattempo la solidarietà e la macchina dei soccorsi corrono sul web. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Libia adesso. Alessio Romenzi è uno dei 4 fotografi italiani premiati con il World Press Photo. Romenzi è stato premiato nella categoria General News, è arrivato 3° con una serie di foto scattate a Sirte in Libia. Valentina Furlanetto, che lo ha intervistato, ha parlato con lui di uno scatto nel quale un soldato libico trattiene un prigioniero dell'ISIS. Sentiamo. È un soldato, diciamo, libico che trattiene un combattente dell'ISIS che è stato catturato momenti prima. Quella foto in particolare è effettivamente evocativa e ha un significato a sé, visto che innanzitutto è praticamente unica nel suo genere. Non ricordo di altre foto scattate da fotografi professionisti di combattenti dell'ISIS ancora in vita, catturati sul campo di battaglia. Era stato catturato 10 secondi prima e tra altre cose viene ucciso, giustiziato 10 secondi dopo quello scatto. E tu sei lì e scatti in una situazione, immagino, di grande tensione, di pericolo anche. Lì il pericolo era che la massa, la folla di combattenti libici si rivoltassero contro i giornalisti che stanno riprendendo qualcosa che non vorrebbero far vedere. E qual è la situazione in Libia dal vostro punto di vista? È una situazione di grande destabilizzazione? Sì, assolutamente. Sì, incontri tra te nominato Haftar e Sarraj, uno è l'uomo forte del momento, l'altro è un politico messo lì da forze occidentali che però se vai a vedere sul campo non ha il minimo peso. A Tripoli, dove c'è il suo governo, c'è circa un colpo di Stato al mese. E anche il fatto che l'Italia abbia stretto accordi con lui lascia un po' il tempo che trova. Di sicuro non sarà il leader che segnerà il futuro della Libia. Veniamo alla politica italiana adesso e ci concentriamo sulle vicende della Giunta di Roma, perché oggi ci sono degli sms pubblicati dai giornali che teoricamente inguaierebbero, creerebbero dei problemi a Luigi Di Maio, ma lui ha prontamente replicato anche via Facebook. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, in un'intervista 2 giorni fa Luigi Di Maio aveva detto di aver incontrato Raffaele Marra a luglio con l'intenzione di cacciarlo. Un mese dopo, invece, però, il vicepresidente della Camera avrebbe dato a Virginia Raggi, la sindaca di Roma, il suo sostanziale via libera alla permanenza in Campidoglio di quello che era il suo uomo forte, ricordiamo, contestato dalla base grillina per i suoi trascorsi nell'amministrazione Alemanno. Questo almeno stando ad un messaggio trovato nel telefonino di Marra e pubblicato oggi da alcuni quotidiani. Non si senta umiliato, è un servitore dello Stato. Sui miei il movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla, scriveva il 10 agosto il vicepresidente della Camera, appunto alla sindaca di Roma, in un SMS girato da quest'ultima allo stesso Marra. Parole che sembrerebbero contraddire quanto detto in pubblico nell'intervista da Di Maio. Sul caso poco fa è intervenuto Beppe Grillo, che è tornato ad attaccare la stampa parlando di fake e minacciando querele. Il Fatto Quotidiano, sempre poco fa, ha invece pubblicato un'altra parte di quel messaggio nel quale Di Maio sosteneva invece che Marra non avrebbe dovuto restare nel gabinetto della sindaca, un incarico, lo ricordiamo, poi lasciato per diventare capo del personale del Campidoglio fino al suo arresto per corruzione avvenuto a dicembre. Per ora è tutto. E grazie Andrea Viali, vicenda piuttosto ormai confusa, come avete sentito, così come confusa è la situazione nel Partito Democratico. All'indomani della direzione di ieri, di questo ci parla nella sua analisi del martedì Daniele Biacchessi. Tutto dipenderà dall'esito del congresso del Partito Democratico di aprile, ma una parte della minoranza starebbe ormai preparando la scissione dal partito, specie dopo i lavori della direzione di ieri. Matteo Renzi intende infatti andare allo scontro finale, vincendo il congresso in assenza di grandi leadership alternative, per andare poi ad elezioni anticipate. In molti all'interno della minoranza del PD ritengono quindi la separazione come una probabilità possibile e per taluni lo scenario futuro della formazione di maggioranza relativa del paese. Del resto all'esterno del PD si stanno muovendo numerosi progetti che potrebbero attrarre i delusi da Renzi e pezzi consistenti della minoranza. Nel pomeriggio di oggi l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia lancia con la presidente della Camera Laura Boldrini Campo Progressista, una formazione politica che punta a ricostruire una cultura politica di sinistra in Italia. A Campo Progressista aderisce già Bruno Tabacci, che definisce Pisapia il nuovo Prodi. Dunque tutto in movimento, anche se sulla testa della sinistra italiana preme ancora il peso della sua storia, fatta di poca unità e di tanti personalismi che hanno sempre portato a scissioni drammatiche. E questo è il quadro dal Partito Democratico. Veniamo ad altre battaglie, quelle che si preparano sui campi della Champions League. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Eh sì, direi più spettacolari. Sicuramente su questo proprio meno, direi che è non anche c'è il meno cruente, meno cruente, no? Sì. Però altrettanto agguerrite, perché torna la Champions, torna la musichetta che più amiamo, torna la Coppa Regina e poi giovedì torna anche l'Europa League. Si riparte stasera, Simone, con l'andata degli ottavi di finale, subito due sfide interessanti, Paris Saint-Germain, Barcellona, una grande classica, i francesi che riprovano l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie, finora mai riuscite, e dall'altra parte c'è il tridente delle meraviglie, Neymar, Suarez, Messi, e bastano questi tre, tanto per non citarvi gli altri otto. Poi c'è un interessante Benfica Borussia Dortmund, che pensa sono le due squadre con l'età media più bassa della Coppa, sia per scelte economiche, sia anche per scelte filosofiche, quindi squadre assolutamente interessanti, ma poi è anche che soprattutto oggi è il giorno della vigilia, no? Domani Santiago Bernabéu, ore 20:45, il Napoli all'esame del Real campione in carica, il Real di Cristiano Ronaldo. In tribuna ci sarà Maradona, ma ci sarà anche Zico, quindi tanto per farti due nomi di gente che col pallone c'è una certa dimestichezza, c'è tanta curiosità e per questo esame, sfida di grandi tridenti, perché da un lato Benzema, Vasquez e Ronaldo, dall'altro quello partenopeo Insigne, Mertens e Calleon. Oggi le conferenze stampa di rito, il Napoli è già volato a Madrid in tarda mattinata, insomma aspettiamo solamente il fischio d'inizio. Poi il 22, mercoledì prossimo, tocca la Juve a Porto. Allora, grazie dunque a Dario Ricci, di questo ovviamente si tornerà a parlare, supponiamo, in tutti i convocati a partire dalle 14. Visto che siamo a ridosso dell'appuntamento con il traffico, ci occupiamo dello smog, dell'inquinamento che sta infestando e sta colpendo soprattutto il nord del paese, in particolare il Piemonte, in particolare Torino, e a Torino si è deciso di varare delle misure drastiche, addirittura in alcuni casi vietando la circolazione di tutte le auto diesel. Stefania Giannuzzi, assessore all'ambiente del Comune di Torino, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa prevede questa delibera? Tra l'altro l'avete già approvata? L'abbiamo approvata stamattina. Noi abbiamo aderito a novembre 2016 a un protocollo regionale in cui scattavano dei blocchi progressivi dei veicoli diesel allo sforamento di determinati limiti di PM10. E con la delibera di oggi abbiamo deciso di attuare delle misure più restrittive, e quindi allo sforamento dei 50 mg per 7 giorni consecutivi ci sarà il blocco dei veicoli Euro 3 ed Euro 4, mentre allo sforamento dei 10 microgrammi tre giorni consecutivi ci sarà il blocco totale dei diesel. Sì, 100 microgrammi voleva dire, immagino. 100, ha detto 10, ma intendeva 100. Naturalmente. Sì. Senta, questa delibera sta creando una qualche preoccupazione, soprattutto tra commercianti, artigiani, come sempre succede in questi casi. Ma sì, ovviamente poi nella delibera ci sono delle deroghe apposite per determinate categorie. Quindi abbiamo pensato anche a loro, ecco. Cioè, avete fatto in modo che chi deve entrare in città per lavoro possa entrarci. Ci sono delle finestre agli orari per i veicoli commerciali, sì. La ringrazio, grazie all'assessore Stefania Giannuzzi per essere stata con noi, assessore all'ambiente della Giunta di Torino. Dunque, visto che di traffico parliamo, al traffico andiamo e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Udine, dove il prefetto ha disposto l'installazione di fatto del wifi gratuito in una caserma nella quale sono ospitati dei migranti. Parleremo proprio con lui tra un attimo, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dei dati sul prodotto interno lordo, della vicenda di Gianfranco Fini, che è indagato per concorso in riciclaggio, e del sequestro di 5 milioni di euro alla famiglia della moglie Elisabetta Tulliani. E ci siamo occupati del caso Cucchi e della vicenda di un malato di SLA che è morto a 71 anni facendosi addormentare. La pratica della sedazione profonda, ci ricorda tra l'altro un'ascoltatrice, giustamente, che anche il Cardinal Martini ricorse a questa stessa pratica. Ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione, sempre nel nostro giro per l'Italia, che inizia però oggi da Udine. Saluto il prefetto Vittorio Zappalorto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, lei ha preso una decisione che inevitabilmente, prefetto, la sottoporrà a qualche polemica, ossia l'installazione del wifi gratuito nella caserma Cavarzerani. È una caserma nella quale sono ospitati migranti, profughi, richiedenti asilo, tra l'altro in sovrannumero rispetto a quella che sarebbe la capienza, come sempre succede in questi posti. Come mai questa scelta, prefetto? Ma guardi, c'è stata data l'opportunità da parte di una ditta locale che già lavora per conto del comune di Udine di installare gratuitamente e a sue spese questo dispositivo. Io ho colto al balzo questa opportunità e ho deciso di far installare questa antenna che consentirà a questi ragazzi di avere un collegamento diretto con le loro famiglie, perché teniamo presente che il problema grande di questi ragazzi è che loro devono essere sempre in collegamento con le famiglie di origine, che sono in Afghanistan, in Pakistan e in Bangladesh. E quindi io ho detto perché no, perché non bisogna fare. Non sottraiamo niente agli italiani, ai nostri concittadini, diamo qualcosa in più a questi ragazzi. Quindi gratuito, cioè è l'azienda che lo offre sostanzialmente, no? È l'azienda che lo offre, sì, che lo mette gratuitamente a disposizione. Perché, se non ricordo male, un annetto fa circa, forse ancora meno, ci furono proprio delle polemiche su questo tema, sollevate da alcune parti politiche, mi riferisco a Forza Italia, oltre che Forza Nuova, che sul fronte di queste proteste è abbastanza un classico, però diciamo anche Forza Italia, perché il comune aveva pensato di farlo, di installare il wifi. Esattamente, lei ricorda bene, ci furono delle polemiche legate a questa iniziativa del comune di mettere il wifi in alcuni punti della città e anche dentro la caserma Cavalderani. Sarebbe stata una iniziativa a spese del comune, questa volta invece non è a spese del comune, è completamente gratis. Senta, il tema appunto è anche far sì che non ci siano assembramenti di profughi e migranti in giro per la città alla ricerca di un hotspot aperto e gratuito, no? Sì, tra l'altro questa cosa consente anche di evitare gli assembramenti in città di migranti, di richiedenti asilo che si affollavano sotto gli hotspot per sfruttare la connessione gratuita. Adesso avranno la possibilità di averla dentro in caserma, quindi noi speriamo in questo modo di decongestionare certe zone della città. Senta, prefetto, sul tema dell'affollamento, perché anche questo è un grande tema, no? Cioè, un tema che riguarda la disponibilità di posti, evidentemente. Il doppio delle persone potrebbe contenere la caserma, ci sono là, ho capito bene? Sì, sì, sì, certo. La caserma adesso attualmente sta ospitando 650 migranti, in passato ne ha ospitati molti di più, quasi il doppio, ma la capienza dovrebbe scendere a 300-350 migranti. E in che modo? Ma noi contiamo sulla distribuzione del territorio, per la quale stiamo facendo una campagna con i sindaci. E che risposte state ricevendo, prefetto? Ma stiamo ricevendo delle buone risposte, perché alcuni sindaci già si sono volontariamente affacciati, diciamo, alla prefettura e hanno ripreso i contatti con la prefettura e hanno offerto una certa disponibilità di accoglienza. Altri sappiamo che stanno lavorando in questo senso e noi gli daremo tutto il tempo che è necessario per pensarci, e poi penso che noi andremo avanti comunque nella ricerca di disponibilità in tutti i territori dove non ci sono profughi. La ringrazio, grazie al prefetto di Udine Vittorio Zappalorto per essere stato con noi, le auguro buona giornata e noi continuiamo a parlare di immigrazione. Noi tendiamo a ritenere erroneamente che il caporalato, ossia quella pratica odiosa di sfruttamento del lavoro non solo dei migranti e dei profughi, però prevalentemente loro, sia concentrata in alcune zone del paese, in alcune aree della Puglia, in alcune aree della Calabria, mentre invece ce lo ritroviamo per esempio anche in Toscana. Succede dunque che due pakistani di 55 e 57 anni sono stati fermati dalla polizia perché accusati di tentato omicidio dopo aver cercato di investire con un'auto di grossa cilindrata un uomo di origine marocchina, 40 anni. Tutto questo succede a Prato. L'uomo aveva avuto il coraggio esattamente di denunciare i caporali ed è per questo che sarebbe stato investito. Saluto Gianluca Giussani, che è del sindacato Fly CGL della Toscana. Buongiorno Giussani, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Quanto è diffuso questo fenomeno dalle vostre parti? Ma guardi, il fenomeno, diciamo che dalle nostre parti sempre più diffuso, però bisogna bisogna approfondirlo un pochino, ovvero come si manifesta. È ovvio Giussani che non parliamo di un fenomeno che ha le dimensioni di quello di Rosarno, suppongo. No, assolutamente, ma infatti la distinzione che stavo facendo è come si manifesta il fenomeno dello sfruttamento della manodopera in agricoltura. Si manifesta attraverso gli appalti. Allora, noi non abbiamo il tipico fenomeno dei pulmini che la mattina alle rotonde vanno a raccogliere i lavoratori migranti piuttosto che insomma coloro che cercano un impiego giornaliero, ma abbiamo attraverso l'esternalizzazione dei lavori da parte delle aziende agricole e attraverso questo fenomeno che avviene il vero e proprio sfruttamento, ovvero l'appalto a corpo dato a un prezzo bassissimo per il quale poi insomma questi lavoratori vengono portati nelle campagne e vengono poi sfruttati. Quindi è lì che si concentra, diciamo, lo sfruttamento maggiore rispetto ai lavoratori, ecco, nel settore agricolo. Avete un'idea? Ovviamente è un fenomeno illegale, no? Quindi è molto difficile da comprendere, però avete un'idea delle dimensioni? Ma guardi, le dimensioni ci preoccupano sempre di più, un'idea precisa non l'abbiamo, lei calcoli che nella provincia, nella sola provincia di Firenze abbiamo all'incirca 8.000 lavoratori agricoli regolari, dopodiché se si va a fare insomma le stime sulle lavorazioni che vengono fatte, quindi le lavorazioni stagionali durante l'anno, diciamo che questo fenomeno può raggiungere dei picchi anche di 2, 3, 4 mila lavoratori. Cioè quel numero, mi scusi Giussani, quell'8 mila persone non è compatibile con la quantità di prodotto agricolo che viene lavorato in Toscana, questo ci sta dicendo in sostanza? Esatto, io mi riferivo in particolar modo alla provincia di Firenze, in Toscana insomma di operai agricoli ce ne sono parecchi di più, ecco. In provincia di Firenze. Questo vuol dire in sostanza che una parte sarà nero classico, presumibilmente, e una parte evidentemente sarà questa forma di sfruttamento. Questa forma di sfruttamento della, diciamo, cosa succede? Succede che le aziende, parecchie, pensano che appaltando il lavoro, trovando qualcuno che ti fa la fattura perché ti sta facendo il prestatore di mano d'opera, si sgrava da ogni responsabilità. In realtà così non è. Sappiamo benissimo che insomma le responsabilità rimangono anche in capo a chi dà l'appalto, quindi insomma questo poi è il fenomeno che ci troviamo ad affrontare e poi raggiunge quelle degenerazioni che insomma sentivo dicevate prima e poi insomma si fa la guerra con i disperati, ecco. Grazie a Gianluca Giussani del sindacato Fly CGL Toscana. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati come sempre a quest'ora e poi ricominciamo il nostro giro per l'Italia, riprendiamo dal Veneto per la vicenda di quest'uomo che ha 71 anni, malato di SLA, ha scelto la sedazione profonda appunto per morire. Dice l'associazione che l'ha seguito non è eutanasia, vogliamo cercare di capire quale sia alla fin fine la differenza tra le due cose tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Prodotto interno lordo meglio delle attese, l'Istat stima un più 0,9% per il 2016, avanti determinati con le riforme per la crescita, twitta Gentiloni. Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio, sequestrati beni per 5 milioni alla famiglia della moglie, Elisabetta Tulliani. Un malato di SLA muore a 71 anni facendosi addormentare alla pratica della sedazione profonda. Caso Cucchi, chiesto il processo per 5 carabinieri, sono quelli che procedettero all'arresto, 3 di loro sono accusati di omicidio preterintenzionale, scusate, da borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, la prossima tappa del nostro giro per l'Italia è Montebelluna e siamo in provincia di Treviso per una vicenda che in parte, solo in parte, vi abbiamo già raccontato nella prima parte della trasmissione. La vicenda di Dino Bettamin, 70 anni, appunto macellaio di Montebelluna, malato di SLA dal 2012, dopo un calvario che è inevitabile per questo tipo di malattia, quando si è reso conto che le forze fisiche lo stavano abbandonando, ha chiesto di essere addormentato, per così dire, voglio dormire fino alla morte. Siamo in linea con Anna Tabarin, infermiera che insieme alla collega Santo Tavana ha assistito Dino Bettamin dalla dimissione dall'ospedale con diagnosi malato terminale per 2 anni e fino alla fine. Buongiorno Tabarin, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, il caso colpisce molto perché per certi aspetti sembra riaprire un dibattito sull'eutanasia. In realtà, come ci faceva notare anche un'ascoltatrice poco fa via SMS, anche il Cardinal Martini ricorse a quella che viene definita la sedazione profonda. Tabarin, ci dice esattamente in che cosa consiste e qual è la differenza? Perché è quello che stiamo cercando di capire rispetto all'eutanasia. Allora, la sedazione profonda è l'induzione del sonno e il mantenimento del sonno attraverso dei farmaci previsti da dei protocolli clinici ben consolidati e viene avviata sul cosiddetto sintomo refrattario o su più sintomi refrattari. Dino Bettamin aveva una dispnea incoercibile, cioè non trattabile più in nessuna maniera, ma soprattutto aiuta i nostri ascoltatori, Tabarin, dispnea che vuol la dire? La mancanza di fiato, mancanza la fame di d'aria. Fiato. Ricordiamoci che Dino Betamin era un paziente tracheostomizzato e ventilato da 2 anni, quindi viveva con il ventilatore sempre appresso e nei precedenti 2 anni ha condotto con il ventilatore una vita assolutamente normale, mangiando per bocca nonostante la tracheostomia, parlando nonostante la tracheostomia, uscendo in carrozzina accompagnato anche dal vicino di casa o dall'amico, quindi non necessariamente da personale sanitario, facendosi accompagnare ai mercatini di Natale di Bassano del Grappa la domenica prima di Natale, bevendo la cioccolata calda nel centro storico di Asolo il 6 gennaio, però era un paziente sempre a rischio crisi respiratoria che più volte alla settimana spesso veniva recuperato sempre a domicilio per sua volontà, nel senso che negli ultimi 2 anni nessun ricovero ospedaliero, nessun accesso del 118 a domicilio, veniva recuperato e riportato alla sua vita normale, che era una vita che lui stesso definiva ancora più felice che prima della malattia. Nelle ultime 2 settimane le crisi respiratorie si affollavano, ma oltre a questo, il vero sintomo refrattario, che è anche quello che aprirà tutto sommato il dibattito sulla scelta della sedazione, era il senso di angoscia profondo, causa e conseguenza dei sintomi respiratori, ma soprattutto diciamo affiancato ai sintomi respiratori. Allora, un sintomo quale l'angoscia profonda, incoercibile per Dino, cioè non trattabile né farmacologicamente né con terapie di supporto in nessun caso. Mi scusi Tabarin, le agenzie di stampa riportano queste frasi: fatemi dormire fino alla fine, no? Più o meno così. Assolutamente, diceva. Cioè Dino ha riconosciuto nel sonno, perché aveva sperimentato il sonno nelle ultime settimane, un sonno indotto farmacologicamente a piccoli step subito dopo le crisi respiratorie importanti, aveva sperimentato che il sonno era l'unica condizione nella quale i suoi sintomi svanivano, cioè l'unica condizione che gli garantiva una vita, diciamo così, adeguata e degna. Quindi quello che lui ha chiesto era che questo sonno durasse finché Dio voleva, perché poi non dimentichiamoci che Dino era un cattolicissimo. Allora, mi scusi, Tabarin, questo è un punto di vista. Con l'eutanasia, lei mi chiedeva. Le spiego, mi scusi, Tabarin, no, da un punto di vista laico, questo fatemi dormire fino alla fine, questo da un punto di vista di un non credente, questo fatemi dormire fino alla fine, suona alla fine come un fatemi morire. Assolutamente no. Anche perché Dino non solo non ha chiesto che venissero staccate le macchine, ma ha esplicitamente chiesto che il ventilatore fosse spento dopo la sua morte clinica sopraggiunta per cause naturali. E così è stato. Il mio collega Santo, che è quello che ha portato fuori Dino dall'ospedale 2 anni fa in condizioni di terminalità, con prognosi a 15 giorni, che lo ha recuperato all'alimentazione, alla parola, alla vita normale, e che lo ha tirato fuori da innumerevoli crisi respiratorie, l'ultima un'ora prima della decisione di dormire, il mio collega Santo perché ho anche gli altri telefoni che suonano, mi perdoni. Il mio collega Santo è quello che ha rispettato la volontà di Dino di spegnere il ventilatore dopo la constatazione di decesso da parte del medico, quindi nulla di più lontano dall'eutanasia. Tabarin, mi permette solo una cosa. Lei lavora tra l'altro per un'associazione cattolica che si occupa esattamente... Cattolica, noi non abbiamo nessun colore, siamo una società privata. Lei capisce che però al nostro occhio la differenza è estremamente sottile. È a un occhio di un bambino che il sonno assomiglia alla morte. Qui in realtà la sedazione profonda né allunga né accorcia i tempi della vita, molto semplicemente mantiene lo stato di sonno per tutto il tempo che la vita durerebbe di per sé. La differenza è che Dino Betamin sarebbe morto con gli stessi identici tempi in cui è morto, però soffocato. La ringrazio. Grazie Anna Tabarin per essere stata con noi e per averci aiutato a raccontare questa storia. Anna Lucia Bonanni, professoressa al liceo Domenico Cotugno dell'Aquila, ed è qua che ci spostiamo. Buongiorno Bonanni, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. La prossima tappa del giro per l'Italia è una delle tante storie che arrivano dal terremoto e arrivano dagli studenti che rischiano di perdere l'anno a causa delle scosse che ci sono state e della vulnerabilità delle scuole. Ma è una storia particolare perché da quel che ho capito qua, Bonanni, c'è una vulnerabilità sismica di 0.27. Ricordiamo che la scala è da 0 a 1, dove 0 è la massima vulnerabilità sismica e 1 è invece un edificio estremamente solido, che, della quale la provincia non vi ha detto niente praticamente per 3 anni o 4. Sì, allora all'Aquila le scuole dopo il 2009 sono state riparate, quelle che era possibile riparare, e gli studenti sono stati portati a scuola. Successivamente nel 2003 sono stati fatti dei certificati di agibilità in seguito a quelle riparazioni, che sostanzialmente dicevano che appunto l'edificio era stato riparato e ripristinate le condizioni antecedenti al terremoto. In qualche caso, come nel caso della mia scuola, ci sono stati anche dei lavori di rinforzo. Dove ricordiamo agli ascoltatori, la interrompo solo per dire questo, ricordiamo agli ascoltatori che agibilità non vuol dire vulnerabilità sismica, perché l'agibilità vuol dire solamente che ci puoi entrare rebus sic stantibus, mentre invece appunto vulnerabilità sismica vuol dire che se arriva una scossa forte, no, è la misura del rischio, per così dire, appunto. Prego. Sì, sostanzialmente sì. Quindi nel 2013 poi la provincia, ottemperando un obbligo di legge, ha fatto fare nella nostra scuola, come in tutti gli istituti superiori che appunto dipendono dalla provincia e sono proprietà della provincia, gli studi di vulnerabilità. Lo studio di vulnerabilità è uno studio molto complesso in cui l'incaricato ingegnere, il tecnico abilitato, va ad analizzare dal progetto di costruzione dell'edificio all'analisi dei materiali a tutta un'altra serie di fattori, di dati complessi che inserisce in un modello teorico e che il quale modello teorico dà poi, fa una serie di calcoli e dà una serie di indicazioni. Ora, l'indice di vulnerabilità è soltanto una di queste indicazioni. Fatto pari a 1, l'indice di sicurezza di un edificio costruito con le nuove norme tecniche di costruzione ci dice qual è l'indice appunto per questi edifici che sono invece vecchi e sono costruiti con altre norme tecniche meno cogenti, meno stringenti. Sì. Nella nostra scuola andiamo dallo 0 per alcuni corpi dell'edificio, perché è un edificio costruito in vari dallo spesso, zero, in vari anni, dallo zero di vulnerabilità sismica, cioè zero sicurezza, fino a un paio di l'aula magna e la palestra che invece soddisfano pienamente i requisiti di vulnerabilità, sono uno. Il problema qual è? Non è soltanto il discorso della vulnerabilità sismica, cioè il rischio, il grado di rischio in caso di sisma. Nella scuola nostra è venuto fuori, perché poi i genitori hanno fatto richiesta di accesso agli atti, si sono guardati tutti questi studi del 2013 mai resi noti dalla provincia, è venuto fuori quindi solo adesso che c'è un corpo dell'edificio, il corpo C, che è il corpo più vecchio, diciamo, il corpo F, chiedo scusa, della scuola, che è il corpo più vecchio, che si dice tecnicamente non verifica ai carichi statici. Anche questa verifica ai carichi statici è un calcolo teorico che si fa sulla base di una serie di dati che vengono immessi in un modello teorico. In buona sostanza, però, questa mancata me lo traduca verifica in una ai parola, carichi statici, in una parola, significa che quell'edificio dovrebbe essere, lo dice la legge e lo ricordano due circolari della Protezione Civile, un edificio che sta nelle condizioni del nostro corpo F dovrebbe essere o declassato ad altro uso perché non può reggere i carichi che ci sono, no, nel caso di allora, o addirittura, ma come il nostro caso, o addirittura reso, dichiarato inagibile, perché nel nostro caso quel corpo non poteva nemmeno essere declassato. Allora Bonanni, dato che la storia è interessante perché riguarda anche come un ente locale tratta queste vicende, noi domani la richiamiamo, perché adesso dobbiamo veramente chiudere, se no dalla regia mi ammazzano. Adesso traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.